anzi più gente entra meglio è, perché qua stiamo cercando di non far affondare il 10 o la 27 in generale, dai. Purtroppo molta gente che entrava fino a pochi mesi fa non si sente più. E ha invogliare gente a entrare, ex amici, conoscenti, cioè si piazza l'antenna e tutto, e poi dici non intendo nessuno, nella mattina, nel pomeriggio, nella sera, allora si buriano e tolgono tutto. E il gioco non vale la candela. Vai Gianni. Ciao Carmino, mi hai sentito deputato Teo. E vabbè, c'è la passione, rimane Marco, e poi se da qualcuno faccio più piacere parlarci. Io Leonardo me ne tengo, sin quando vivo me ne tengo, perché tanto ogni tanto mi accendo qua, tanto ho altri dubbi, se non c'è nessuno in radio già lo sai, vado, me ne vado a cantare via. Sì, già, sì, lo so. Alla fine, cioè, per stare a svendere roba meglio tenersela. Poi se capita che trovi qualcuno. Comunque Antonello prima ha sbagliato, non era Mercury. Cioè la Mercury è simile, credo. Si chiama Energy 5 ottavi, alias Sirio GPE o GPS, non mi ricordo qual è, perché una è la mezz'onda e una è la 5 ottavi. E infatti anche a me il nome sulla vostra. Guarda, quell'antenna sostanzialmente è la stessa, ha 10.000 nomi, la Silver Road, la, aspetta, Mercury, BA27L, guarda, c'è in tutto il mondo con tanti nomi, però grosso modo è quella, 90% è quel progetto lì. Gavino, vuoi riprendere? Ne ho una GPA io, la 5 ottavi, ancora in nella scatola, nuova, mai, cioè solo montata per fare le prove e poi tolta e messa da parte. Con l'antenna lì è buona, Marco, è buona se di fare alcune modifiche, nel senso di devi prendere e cambiargli tutta la bulloneria, mettere inox e poi sigillarla bene, sia dove la carica che nelle giunture degli stili, e poi nella piazza dei radiali devi farli alcune migliorie, ma è un'antenna che va bene, perché diciamo finché c'è bel tempo funziona bene, appena piove, se non la isoli bene, sale l'SVR a stecca, quindi vabbè, quindi però è un'antenna buona, dai. Ce l'ho nuova io, ancora della confezione originale, ancora con la scatola originale, però non la do, la tengo e ciccio, rimane lì, non si sa mai. Vediamo se vuole riprendere Giulio. Avanti Giulio, sono entrato a salutarti, come fai tu in genere, Giulio. Ok, infatti stavo aspettando un momento opportuno per salutarti, perché non avevo fatto in tempo poc'anzi, dai. Però purtroppo ve devo lasciare, perché sono già in ritardo, che devo fare terapia a quest'ora io, eventualmente stanotte, se ci sei in compagnia dell'altro amico, magari mi avvicino per i saluti. Ok, ciao, buonanotte a tutti, grazie ancora per la chiacchierata, per tutti. Riprendi ancora Gavino e poi chiudo, vai. Sì, io mi dopo le 9 già sono sul 12 in FM, noi sul 12 rimaniamo in FM, quindi continuo, ci facciamo le 4 chiacchiere con Franco, poi chi vuole entrare è sempre ben accetto. Capito Marco, io ce l'ho con l'antenna, l'ho montata e dai, è giusto a fare qualche confronto con quella che uso io di solito, ma sembra funziona bene, addirittura tarata bene, copre tutta la 27, proprio da 9,65 fino a 27,600, io ho provato a tararla bene, fatti alcuni accorgimenti, va anche su nelle bande EDX, quindi, ma con un SVR di 1,2, 55 ohm, proprio tranquilla, niente da invidiare alle altre antenne, proprio va bene, vai, riprendi Marco e io faccio quel ritisco, sono andato per un saluto. sono andato per salutarvi, visto che ci siete più o meno tutti, sono andato per farvi un saluto. Quindi ce le ascoltiamo le prossime. Vai Marco di nuovo, ciao Gianni, chi fosse l'ascolto. Pon pu, pon a capo e fai di bravo. Vai, riprendi Marco. K Gavino, sì, io l'avevo rosmetrata anche questa con l'AIVA e praticamente nella mia installazione ho SVR leggermente inferiore a 2, 6 dove agli estremi, 26 e 2, poco inferiore a 2, non ci arriva nemmeno, e 28 e 2, giusto 2 MHz, con quasi 2 o meno agli estremi, 26 e 2, 28 e 2, ovviamente a 27 e 2 è piatta. Per non dire uno sta a uno, nemmeno uno è uno, è proprio piatta. C'è 11 anni e mezzo, a maggio fa 12 anni, non l'avrei mai detto, vediamo se ci arriva comunque, se non viene qualche ciclone strano. Va bene, ciao Gabino di nuovo, buon proseguimento, buon tutto, ci sentiamo. Vai Gianni. Ciao Gabino. Grazie per il piacere di essere venuto a salutarci. Se capita, ti passo anch'io, dai. Se capita di notte, va, è un po' difficile perché la notte sto su internet e quindi entro poco. Va bene, ci sentiamo, buon proseguimento e tante cose belle. Sì, ciao a tutti, buona cena, buona cena. Avanti, buon... Sì, ciao Gabino, salutoni da parte mia. Buon tutto. Avanti Gianni, stiamo avendo il telefono con Simona che tra un po' rientra da pronto soccorso. E perché ha pronto soccorso? La tetta secchina è scesa senza treno, lo so io. Che hanno fatto la flebo di vitamine, eccetera, eccetera, stanno controllando tutto. Ancora non è uscita, non l'ho mangiata nulla tutto quanto la sera, anzi non l'hanno fatta mangiare, e manco le medicine mi hanno fatto prendere. Quindi sto aspettando il effetto che diranno, se la rimettono o se la lasciano lì stanotte. E con chi è Simona? Qualcuno l'ha accompagnata? Vicetto l'ho accompagnata e basta. Io non potevo uscire col cane. Andare gioia. E quindi quando la rimettono vai a prendere. Quando la rimettono gli ho dato i soldi e viene con l'ambulanza. Sperando la rimettano prima delle 10:30. Perché se dopo le 10:30 non trasportano nessuno, già lo sa che sono dei cani morti. Quelli dell'associazione. Vuole controllare la ragazza, perché se mangia poco non sta bene. E a mangiare mangiava di tutto, solo che poi ho cominciato, quello non mi piace, quell'altro non mi piace, allora ho detto, fa una cosa bene, ti accompagno dall'ospicolo, c'è la rotella e ho detto, e ti compri quello che piace a te, ma mangiavi tutto, adesso non ti va più niente. E infatti la sera mi... Se rientra, io già sotto la pizza quella di Rossino, eccetera, eccetera, in modo che sia tranquilla. Non sto scendendo il radio, non sto scendendo il radio. No, si è sparito di radio, tu. E infatti me ne sono gabbizzato. Ho detto, stasera, se rientra, si mangia la pizza e è a posto, quella di Rossino. Gli metto un po' di prosciutto, quello che c'è, e così me lo già faccio bene e farcita. Marco, riprendi, che ore sono? Allora già sono le 19:44, alle 8 porterei il cane. Antonè, tu poco fa hai nominato la Mercury, cioè anziché Energy hai detto Mercury, ma la Mercury era uguale? Sì, Energy, Mercury, tutte uguali, via 27L, tutte... cambiava solamente la marca, una era l'EM, l'altra era Sirio, capito? Però erano tutte uguali. Era come quel periodo che è uscita la Firenze 2, dalla Firenze 2 poi avevano fatto la KF4 che era precisa identica, poi dopo la KF4 avevano fatto un altro modello e poi sono sparite tutte la circolazione con le antenne. Ma era quella che aveva una cosa azzurra, mi pare, cos'era? La bobina, la plastica della bobina? Sì, la plastica della bobina azzurra e poi sotto c'era la manopolina rossa per la regolazione delle stazionarie. Non c'era neanche bisogno di aprirla con l'antenna. La carica era grossa qua, in rame, perfettamente sigillata, quindi acqua non entrava. E in più faceva la 27, da 27 ai 30 e poi anche la 144 addirittura. Ehi, mi hai ricordato anche quell'altra che faceva la Ecoantenne, la Vega 27, mi pare col W, Vega, vabbè, in italiano Vega. E quella era 5 ottavi telescopica, cioè tu alzavi gli elementi, giravi queste ghiere, questi anelli di fissaggio ed era pronta all'uso anche per installazioni temporanee e mi pare che anche lì avevi la taratura dell'antenna da una rotellina alla base sotto. Esatto, vabbè, adesso poi l'ultima che avevano fatto era la Firenze 2 Explorer e c'era Roberto Pinna, piazzata in casa sua, c'ha quella specie di abitatura a mano, capito? Infatti se ripetevi la vasellina sembrava tutto. Infatti lo stile lui è sceso perché a forza di vibrare si sono smollati quei dadi così l'abitatura e se ne è sceso lo stilo. La diana mi sembrava una ventina, tutti di colore verde. Ah, ma senza agglomerante, perché l'agglomerante te la sostiene anche, ti tiene gli stili, non rischi quella cosa lì, capito? Vai Gianni. Io non vi dovrò spiegare qual è la differenza tra agglomerante e vulcanizzante, o è la stessa cosa? Boh, già, io l'ho trovato che c'è scritto autoagglomerante, quello di Fusaro, quello di... ormai lo vendono anche a basso prezzo da Tecnomat, e c'è sia stretto sia più largo, non ho capito se c'è una differenza, non l'ho mai capito, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, Antone niente ne sai. C'è largo e c'è anche stretto, quello già è vero, sono uguali, cioè uguali nel senso che tengono, solo che uno per tubature e l'altro invece per lavoretti di elettricità. E vabbè, comunque, interessante che faccia il suo dovere, non è così? Ah, quello sì, l'importante che faccia il suo dovere. Sì, guarda, se è applicato bene e anche in generosa quantità, come abbiamo fatto io e Pomponio, con quella super installazione, persino un'antenna di chicchia come questa ti dura, non dico una vita, ma quasi. Ti arrivo, magari dura 30 anni, dura. Sì, noi siamo stati fortunati, la verità, Non c'è mai successo nulla, grazie a Dio. Invece qualcuno che l'ha comprata o gli si è risaldato la carica dallo stivo perché c'è una placchettina piccolina, e capito, invece è saldato il rame. Oppure gli è entrata acqua dentro, eccetera, eccetera. Me invece, grazie a Dio, bene, io ho messo il vulcanizzante sopra, poi un altro isolante, e poi ancora ci ho messo la vasellina in modo che quando piove, se dovesse piovere, l'acqua scivola, capito? Verso i radiali. Oggi ho visto uno fare un esperimento, credo che sia un inglese o un polacco, l'ho visto su YouTube. Lui praticamente ha preso questa Gain Master e ha sostituito il cavo dentro il tubo di polietilene, quello che è, con uno stilo in alluminio. Non so come cavolo l'abbia fissata, credo che abbia saldato il cavo della base con l'arrotolato allo stilo e praticamente ha ottenuto lo stesso effetto. non so se valesse la candela, però l'ho provato. Penso che già valga la candela. Si è approvato e è andata bene, perlomeno, di andare. Ma tanto per sperimentarmi. Se no, vabbè, tanto valeva tenerla così, io avere l'antenna d'alluminio. Oh, a me piace l'alluminio, Antonello. È come la storia della di queste antenne VU. Proprio Gabino che è entrato poco fa mi pare che avesse avuto un problemino con una X, ma X30, X50, perché dentro c'è quella basettina tipo circuito stampato e ci sono quei maledetti condensatori a lenticchia piccolini e delle bobinette, certe volte danno problemi quelli e devi aprire l'antenna, di saldare, cambiare, mentre con stile in alluminio tipo quella monobanda Diamond BC202, quella è tutto alluminio, poi c'è la bobinetta al centro chiusa, sigillata, bello, semplice, senza complicare la vita, e con una larghezza di banda discreta, perché il conduttore, il radiatore c'è un certo diametro, quindi c'è una larghezza di banda ottima. Allora, appena la compri, il centro banda è per i 4,35, però ti copre tranquillamente il PMR senza dover tagliare gli elementi. Ho capito. Allora via X200 l'avevo aperta perché mancava acqua. Allora l'ho preso, l'ho pulita bene, tutta la tanta bianca era la base all'interno. L'ho pulita bene, poi ho preso tra dove ci sono quelli condensatori, ho comprato la vernice sintetica, gli ho spruzzato tutta la vernice sintetica dove c'è il rame sopra, ho preso anche le lenticchie. Poi ho preso, ci ho infilato tutto il nuovo dentro. E non mi ha più dato problemi e funziona benissimo quell'antenna lì, ce l'ho, quanto ce l'avevo? Un annetto, una cosa del genere. Ma quel fulmine non ha fatto niente, alla moto va sì, ma il fulmine, quell'antenna non l'ha mai fatto il solletico. Almeno quello. Gianni, sei rientrato? Forse si sta preparando a uscire col cane. Bene, caro Antonello, se tutto va bene siamo rovinati. Allora, se tutto va bene siamo rovinati, sì. Croc. Che palla, aspettare. E adesso mi tocca aspettare fino a mezzanotte, secondo come se dovessi avere problemi che non la mollano prima delle 10 è un casino, cazzate. Se c'è un'ambulanza a farla andare lì bisogna giocare all'otto. Come ho fatto un sacco di volte con mio fratello, quando andavo che uscivo a mezzanotte oppure ci andavo, io uscivo intorno alla mezzanotte alla una a cercarne una. O ti chiudevano il telefono oppure staccavano tutto. Qualcuno ha trovato il perculo a fare i trasporti. Siamo 30 euro ed entravo a casa, non voglio aspettare la mattina alle 7:30 e sarei ributtato tutta la notte. Sì, a quanto mi hanno riferito anche le ambulanze, questo volontariato, mentre prima magari o non chiedevano niente o andavano a offerta, adesso mi pare che si facciano pagare tutti, e profumatamente pure mi. Già lo so che si fanno pagare, vabbè. D'altronde è come c'è la porta, con la macchina di Giovanna, capito? C'ha problemi per camminare, capito? Come fa 50 metri c'è già l'affanno, la vera voce. Invece lì rimane seduta in quella carrozzina tipo, simile a quella che c'ha a provare. E beh, me la portano a casa, me la portano. Ehi, no, infatti, se non ce la fa manco a camminare, poveretta. Guarda, piuttosto che... Sai cos'è? piuttosto che la lasciano troppo tardi, è meglio che la tengano in osservazione e la fanno uscire domani, quando le ambulanze ci sono, quelle ti portano proprio a domicilio, no? Che fanno i servizi. Sì, vabbè, io lo so, ma il problema è che non mangia nulla da stamattina, tu quando vai a chiedere non mi date nulla da mangiare. E siccome c'ha 100 euro c'è in tasca, cazzo, è un casino andare a cambiare 50 euro di spiccioli, capito? Quindi in quella specie di macchinetta dove vendono i cioccolati, le brioche, tramezzini, eccetera, eccetera, capito? E poi un tramezzino congelato, ce la fai a mangiartelo? Insomma, che le diano qualcosa, almeno flebo, cioè che le diano liquidi, capito? Che la facciano bere, cosa la lasciano senza mangiare, senza bere? Vabbè, sarebbero capaci, hanno fatto di peggio anche periodo di Covid. Ah, periodo di Covid, sì. Più di uno lo tocceva, poi c'era un coso, c'erano tutti, ti facevano entrare a uno, ti facevano entrare, si trattenevano di mamma, che era brutto quel periodo, pucci. Ma ormai è finito questo Covid per il momento ancora, a meno che non riappaia con questi cinesi, che solo loro lo portano il Covid. No, e adesso si inventeranno qualcos'altro, già stavano parlando di influenza aviaria, e quella ce la portano gli uccelli direttamente. Quando la prendono in domi con un sistema collaudato. Ciao mi. Ah, io il vaccino dell'influenza non l'ho fatto, per niente. Ho sulla voglia di rovinarmi la vita. Antonè, allora, in periodo di Covid, no? Certi bar prendevano delle precauzioni, però, meno male, era sempre accogliente, no, l'ambiente. Una volta dalle parti dell'ospedale, di Via dei Mille, del parcheggio di Via dei Mille, entro in un bar a pigliare un caffè, dentro tutto vuoto, niente sedie, niente tavolo, c'era un tavolino a destra e una a sinistra, tutto il banco del bar, tutta questa vetrata, tipo sembrava quei vetri blindati degli sportelli della banca. I tipi tutti bardati, mascherina, celata, occhiali. Guarda, mi ha fatto l'impressione, sembrava di entrare in quei laboratori, biolaboratori livello 4, quelli che vedi nei film delle epidemie. Mi ha fatto l'impressione che stavo per girare le spalle e andarmi. Poi il tipo è uscito da dentro, mi ha chiamato, dice prego, vorrei un caffè. Ma mi ha fatto un'impressione. La follia propria, cioè la follia proprio. Vai, non vai a parlare, io sono andato a Pizzicotto, lo mangiavi la pizza. Eccolo con chi sono che era andato. C'era Giovanna. Lo sta uscendo. È uscita Monica, la moglie di signor Franco, con questa cosa in testa. Bianca, la mascherina nera. I guanti neri, cazzo. Ah, ci ho fatto cazzo pensava là. Un morto mi sembrava. E il signor Franco bello tranquillo, invece. Beh, il signor Franco bello tranquillo. Questa mattina avevo un cazzo, vero? Ho sentito solo il signor Franco bello tranquillo. Non si è uscito tutto il passaggio, tranne l'ultimo pezzo. Aspetta un attimo, che forse ho capito il problema che c'ho. Aspetta un secondo. Sì, adesso ho compreso cosa cazzo è. Devo aprire l'apparecchio e spazzolare la ventola. No, non mi sta funzionando la ventola. Quando scalda, se ne metto a pressione la parete, aspetta che attacco il coso, le ho messo 200, così poi domani mattina mi diverto e pulisco la ventola, 340, questa è forza di non usarlo. Io. Fai, attacca. Prova, 1, 2, 3. Ecco qua. Sono rientrato, adesso sono con l'altro. Sì, aspetta che abbasso il ricevitore. Poi vabbè, capito la storia di quel bar. Poi da una finestrella, allora anche i guanti aveva, da una finestrella tipo le banche mezze blindate, mi hanno aperto la finestrella, mi hanno passato il caffè e si sono richiusi dentro. Mamma mia, io ho esagerati. Io poi in famiglia non sappiamo cosa sia il Covid. Non sappiamo cosa sia, mai passato, mai. Anche strana come cosa. Purtroppo, capito. Se volevi lavorare, ricatta da quello. Devi farti la vaccinazione. E invece ho conosciuto i tassisti, ma ancora ha fatto il vaccino. E grazie a Dio stanno meglio di me stanno. Chi ha fatto il vaccino ha avuto sempre dei problemi. Figurati, io ho avuto problemi al braccio e ho cominciato a sentirmi debole, al braccio, la gamba. Aspetta, Simona, un attimo, aspetta. Ehi, telefonato? Attenzione, doppio room, ci sei ancora? Stai cantando, dove sei? L'hanno dimessa, cazzo, mi ha detto, una buona notizia mi ha dato. Ci sono un bel po' di medicina da comprare, mi ha detto, cazzo, mi ha detto. Così domani mattina mi ammazzi, ho detto. Ma l'hanno dimessa come la portate, ambulanza? Adesso penso che stia chiedendo qualche ambulanza ad accompagnarla a casa, capito? Mi ha detto che deve pigliare un bel po' di medicine, mi ha detto che deve comprare nuove. Quindi, va, vediamo, tra quelle che pigliava prima e quelle di adesso, speriamo bene. Ehi, ma chi c'è al pronto soccorso con lei? Adesso non c'è nessuno al pronto soccorso, cioè c'è gente, però... non lo so, adesso chiederà qualcuno di quelli che passeggiano lì nelle ambulanze di quanto vogliono per accompagnarla di qui e basta. Cavolo, perché uno dice a portarla in macchina, ma se non può camminare è un macello, io se in braccio non ce la facciamo, per dire. No. E poi ci sono gli scalini da fare qua, dopo l'ascensore, già l'hai visto. Stamattina stavo trampando, ho detto occhio agli ultimi due gradini che ci sono nell'angolo. Ho detto no, tranquillo, già non succede niente, già mai non si va la casa. Scusa Antonio, ma l'ascensore è tuttora rotto? No, l'ascensore funziona, già lo sai, fino al piano sotto di me. Dopo che per salire dove sono io, già lo sai, al piano rialzato, ci sono quelle 5 scalini, poi ce ne sono 3 scalini che sono fatti a triangolo. E quindi bisogna stare ben attenti, capito? Quando sali, perché se sbagli poco a poco come mi ti piedi così nel galerino ci scendi giù direttamente, ci scendi. Eia, vabbè, aspetta che mamma ha chiamato un attimino Antonio, fra poco anch'io stacco, così magari preparo la cena, poi mi guardo un po' di TV, guarda mi voglio sdraiare che oggi una fiacca terribile. Un attimo là, vi saluto tutti cordialmente, scusate dal telefono, là. Ciao a tutti. Eia, ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao Gianni, buona proseguente o buon tutto, dai. Grazie altrettanto, ciao. Sì, vado a sentire, ho già capito cosa mi ha detto mamma, a posto. E quindi, beh, comunque mi ha fatto piacere, Antonio, che quell'apparatino che ti ho detto ieri abbia funzionato, cioè gira meglio degli altri, in ricezione parlo. Ah beh, quello sì, cioè va bene, quando è così ha voglia, non importa che funzioni. Ma No, qualcuno mi aveva avvisato, dice, mentre parlavi in PMR si è sentita la tua voce in VHF. Non credo che abbiano traslato intenzionalmente, magari qualcuno stava andando a parlare, che ne so, stava ricevendo lì e si è sentito per un attimo la mia voce. Sì, vabbè, ho succeduto da quando trattano io. Già si nota che siamo in PMR, non è che siamo in VHF, quindi a volte magari ci ascoltano, già lo sai anche tu, e quindi vanno a schiacciare e sentono anche la voce nostra. Ti dico, uno lo fa. Anche noi, quando siamo i 27 che ascoltiamo i VHF, tanto per dire, a volte schiacciamo la porta del baracchino e ci portiamo presto quello che stiamo ascoltando dall'altra parte. No, ma dico, vabbè, se parli in PMR non conto, ma che non ti traslino in VHF. Lo fuffo arrabbiato perché c'è prezzo lì. Aspetta, aspetta. Che palla, un attimo. Io. Eccomi, Antone. No, dicevo, non, sicuramente non è voluta, magari come stavano andando a parlare, c'erano un ricevitore vicino, come succede a me, anche io c'ho il ricevitore a fianco, c'è l'altro parla 27 e parlano là, allora devo abbassare il volume. Cappa. E io ho capito, c'è una portante sul 446 056, se qualcuno si è dimenticato qualche trasmettitore PMR acceso in trasmissione. Mi assenti? Passante e butta. C'è quasi più di un'ora, c'è. Ah, più di un'ora. Ammazza. Buone batterie. Sì, magari qualche veicolare mi ci ha dimenticato il microfono agganciato. C'era un periodo che c'erano il ponte pappagallo, c'era dove andare a parlare, oppure stavano usando la frequenza PMR con VHF, capito? Per fare il ponte. Sì, certe volte anche in 27, però penso di propagazione, avevano messo un pappagallo, ogni tanto cambiava di canale, anche sul 12 era capitato, però il segnale oscillava come se fosse propagazione, baramobile non credo, in locale, c'era stato qualche spagnolo con qualche parrot. No, c'erano i russi, c'era. Se tu vai 27-200 verso le 4 di sera, c'è questo ponte, c'è 27-200, prendi, parli e ti senti il bip finale, e poi tutto quello che dici tu te lo senti, te lo ripete, capito? Ed è roba ucraina o russa, una cosa del genere. Guarda, se 27-200 i polacchi usano lo zero finale, hanno i canali come i nostri con lo zero finale anziché il 5, l'ho sentito anch'io in FM, e allora è proprio polacco. E poi l'altro giorno stavo girando, cazzo, ma ho inteso la messa, cazzo, di aggiunto, ci manca solo la messa adesso, il 27. Allora, ho sentito una cosa del genere sui canali 20 qualche mese fa, forse era fine estate, inizio autunno, credo che fosse o sui canali 20 o sui 30, però penso i 20, in FM, questa messa in inglese, dal vivo, se c'era il tipo, sentivo un po' di effetto anche cattedrale, no? È come quel servizio che fanno in certi paesi, che hanno un trasmettitore, forse 40 MHz, una cosa del genere, e alcuni fedeli se lo comprano, glielo regalano, non so, e si ascoltano la messa in paese dentro casa, sai, chi non si può, chi è malato non può andare in chiesa di persona. Sì, già lo so, già me ne sono accorto. L'altro giorno l'ho sentito, c'era il prete e poi sentivano i fedeli parlando. Sì, ma questo era italiano o inglese? Inglese. sì, sì, è quello, è quello. Tu pensa, in propagazione praticamente... Beh, in FM sarà inglese, magari gli americani ancora no, prediligono la M. Ah, e anche gli americani hanno adottato l'FM, lo sai, prima AM SSB per 50 anni, 70 anni, quando è, da quando esiste la CB, che da loro è nata, cioè è nata lì credo. E alla fine stanno facendo anche lì apparati completi AM, FM e SSB. Naturalmente quelli puristi della M diranno sacrilegio, cos'è sta roba? Vabbè? Aspetta Marco. Marco, sono al telefono con lui, no, sono al telefono a baracchina, Marco Condor. Yasimo. Mi senti Simo? Sì. Ah, meno male. Ok, aspetta Marco, sono al telefono. Eia. Dicendo, boh, di quei trasmettitori delle messe, no, vabbè, niente di che. Ehi, tu prova alle 4 la sera, 27200 in FM e c'è questo ponte, c'è. A parte che si senti i russi che sono un segnalone allucinante, insomma, figurati tu. Ehi, vabbè, polacchi saranno. Poi non si possono vedere polacchi e russi, adesso vai a toccargli il parrot ai polacchi, te lo spagnolo subito, ma che pasticcio. Ah beh, quello sì. Qualcosa... la quale devo sistemare questa gente. Domani mi armo di cosa? Mi armo di fondo, mi ho passato di fondo dentro alla ventolina, la faccio girare, come ho fatto l'altra volta. Una volta che si è messa a girare, è andato, non ho chiuso l'apparecchio, devo togliere solo il coperchio. Devo togliere, prima devo aprire naturalmente al libro, poi togliere i coperchi, dove c'è la ventola, dove ci sono quei fuori, tac, ci spara un po' di aria calda e vabbè, già va bene. Mi chiedo che fine ha fatto, ah no, aspetta che il Mac è troppo alto, mi chiedo che fine ha fatto il mio Kenwood, quello che avevo venduto. Praticamente sempre gente compra roba, compra Kenwood e poi non li senti più, spariti. Già è vero. Comunque so se già ce ne sono Kenwood in giro, è pieno. Mi ha solo trovato e basta. Faccio un giro, intanto qualcuno c'è che ce l'ha. E se lo vende. Non è quello il problema. O anche a Cagliari. Andate all'autovedi, telefono, me lo faccio mandare direttamente, così almeno se prendo la fregatura vado direttamente in treno e gli spacco la testa. Chi vuole entrare avanti? No, sembrava un tocchettino importante, isolato. Beh Antone, io stacco per oggi. Mi dedico un po' alla roba in cucina, poi guardo qualche film mio. o se c'è roba bella in TV, vediamo. Va bene, ok, da. D'accordo. Sentiamo domani allora. Stavi bene e ci sentiamo. Ciao, buon cuore di buon tutto e buonanotte. Ehi, ciao Antone. Saluta Simona quando rientra da parte mia, Giovanna e tutti, dai. Ci sentiamo quando capita, non dico domani perché lo sai che io sono un po' incostante. Ciao Antone, buonanotte e buon tutto. Ehi, ok, ciao, buonanotte.